Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle. Fettel sì, overkillarmi, softe che iede brainstorm. Mel, 89 dpm, prod. Un viaggio nel tempo, peace. Lo chiamano futuro e non è vero. Suoi lampi squarciano il cielo. Grampi mi sedio serio, digito su finto stereo. Sono dentro la Deloria, una vita di paranoia. La memoria di backup, anti-club, la mia storia. Sono nato al momento sbagliato, posto sbagliato. Sbaglio la somma dei rimasti, ma non muta il risultato. Io non credo di poter restare fermo a guardare questi sogni che si mischiano allo spazio temporale. Suono più digitale, riporta l'era glaciale. Originale per guardare, tocca che ti mangi in sale. Antimarziale, marziano, più militanza cerebrale. Sverso nello stesso tempo, lento dentro fa più male. Qua la storia si ripete come i battiti del cuore. Devo anche ricaricare il flusso canalizzatore. Non ho voglia di vedervi tra cent'anni persi in mare. Solo voglia di girare questa chiave e accelerare. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dov'è. Ricominciare da capo è un concetto prematuro. Illuso chi nel capo al suo cospetto resti muto. Barcolli in mezzo al buio, ma la tua indecisione che alimenta l'illusione di sentirti più al sicuro. Completamente perso in mezzo a un male che non curo. Sei un elemento infetto che mi amplifica l'effetto. Per me puoi anche andare a fare in culo, mettendoti in valigia ogni tuo assurdo preconcetto. Aspetto che arrivi la mia epoca per ritrovare l'assetto. Questi tempi sarò già sotto un metro di cemento. Lo sento, cominciare. Hanno spinto dentro, errore dell'annata. Per chi crede ancora al quinto elemento, ha senso andare un po' a rilento. Ma qui andiamo al contrario, mandiamo indietro il tempo. Regrediamo a stato brado. Assaggia la mia carne al sapore dell'escluso. Fare un viaggio dentro al tempo col ritorno nel futuro. I piedi sul water attaccando un orologio. La porcellana era bagnata, sono scivolato e ho battuto la testa sul lavandino. Quando ho ripreso i sensi ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita. Sono passati 15 anni da quando è iniziato la folle impresa. Immersa negli organigrammi, stati alti da scienziata scelta. Infranti dogmi che mi frenavano, corpi solidi mischiavano alchimia e materia dove si incontravano. Rimosso ogni ostacolo a partire dal mio mentore. Appresa la conoscenza, ho eliminato senza remore. E quel prete che bruciava i miei quaderni, me lo ricordo che urlava e rinnegava la sua fede pur di dissuadermi. Vermi senza nervi asservita alla forza mistica, cultisti della scienza fermi in una causa effimera. Voi non mi riconosco, l'ho capito, solo uso quel che so per andare oltre ciò che è consentito. Partirò tra un momento, finiti in preparativi. La mi attendono infinite bisettrici dello spazio-tempo. Lascio un messaggio scritto, il senso del mio gesto. Sto cercando la mia epoca e questa non è di certo. Addio, addio, addio.